24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8 e 17 minuti è la terza parte di 24 Mattino. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Maria Latella, eccoci, buongiorno. Buongiorno, ed è sempre un piacere cominciare la mattina dell'inizio della settimana con i nostri ascoltatori, con te, con tutta la squadra di Radio 24 Mattino. A tutti quanti, allora il saluto, buongiorno, tante cose da, sì, tante cose da commentare questa mattina, sì, Simone. Per questo fine settimana, gli ascoltatori, se vogliono, ci possono raggiungere come sempre al 349-238-6666, è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio naturalmente, e all'800-2400-24, che come sanno è il numero per intervenire in diretta su tutti i temi che vi interessano, tutti i temi di attualità. A partire naturalmente dalla Libia e da questa conclusione del vertice di Berlino, della quale parliamo con Emma Bonino, senatrice di Più Europa, ex ministro degli esteri. Bonino, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Emma Bonino, e la prima cosa che vorrei capire da un'esperta di questioni mediorientali come Emma Bonino, ricordiamo che ha passato anche un lungo periodo in Egitto a studiare l'arabo qualche anno fa, come dire, a riprova anche della resilienza. Poi mi piace citare questo episodio perché di solito dopo una sconfitta, in quel caso c'era una sconfitta alle elezioni, uno si deprime, no? Quando uno ha una sconfitta sul lavoro si deprime. Invece lei disse: no, ricomincio da un'altra parte, andò a studiare l'arabo. Va bene, chiusa la parentesi, ma per spiegare, perché la mia prima domanda è: vorrei capire, tra Turchia e Russia, che sono i protagonisti di quello che si sta giocando in territorio libico, a detrimento anche dei paesi europei e dell'Europa tutta, tra Turchia e Russia, a chi è andata meglio dopo il vertice di Berlino e perché? Io trovo che ha ragione realisticamente Angela Merkel quando dice, insomma, abbiamo capito quanto sia, questo vertice è servito anche per capire quanto sia difficile trovare seriamente una via d'uscita, e effettivamente i risultati sono modesti dal mio punto di vista, perché la questione vera è quella che succede adesso, ovvero chi fa il monitoraggio delle forze sul campo, chi controlla l'embargo sulle armi. Salamé dovrebbe assumere la responsabilità del processo molto complicato di implementazione degli accordi. Ovviamente non c'è ancora una risoluzione del Consiglio di sicurezza, né una forza di caschi blu o simili che possa provvedere alla fase di controllo militare sulle armi cessate il fuoco. Non ci sono neanche meccanismi repressivi sull'embargo, per le quali comunque invece le risoluzioni già esistono, e quindi immaginatevi voi. In più gli arabi non vogliono che a monitorare una tregua siano due contingenti non arabi, cioè i russi e i turchi, cui tu facevi riferimento, anche se effettivamente sono gli unici ad avere forza sul terreno. Quindi tutto quasi dipende da cosa succede da adesso in poi. Primo, se le parti si astengono dalle ostilità. B, se tutte le potenze coinvolte si astengono a loro volta da fornire armi ed altro. C, se un processo politico viene rilanciato e se funziona sì o no, e se tutto questo viene seguito e monitorato con processi multilaterali efficaci in cui tutti i partecipanti a Berlino si impegnano di conseguenza. Quindi non so bene dire chi sia il vincitore, cioè, o chi abbia perso. Io penso che lo si vedrà nei prossimi giorni. Immaginatevi che proprio ieri, domenica, il giorno della conferenza di Berlino, Haftar ha chiuso altri pozzi, tanto per dare il segnale di come stiano poi le cose sul terreno. Per cui, secondo me, non è proprio il caso di cantare vittoria. Credo quasi per nessuno. per il momento. A testimonianza della situazione complessa, citavamo questa mattina a Bonino la stessa foto opportunity, che è una foto con ormai una ventina di persone, cioè sì. È diventato un conflitto, o meglio, la soluzione del conflitto passa attraverso una quantità di soggetti che solo un anno fa sarebbe stata impensabile. Esatto, ed è anche da notare, anche se, che le azioni più recenti del conflitto sono guidate o dirette quasi soltanto dall'esterno. Una grande proporzione di fighters sono arrivati dall'esterno. Il gruppo Wagner dalla Russia e gli altri dalla Turchia. I soldi stanno arrivando solo dall'esterno e le armi sono arrivate già da un bel po' solo dall'esterno. Quindi mettere insieme in modo sostanziale, durevole, questi 20 personaggi, anche se noi ne citiamo sempre solo due, non sarà affatto semplice. Quindi io non canterei vittoria, non so se si dice che il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno. Certo, è stato formato questo comitato militare congiunto, cui partecipano anche Turchia e Russia, Haftar e Sarraj. Si prevede una conferenza intralibica, mi pare a Ginevra, per fine mese. Tenete conto che oltre i 20 attori della foto ce ne sono molti altri attori che guidano delle milizie le cui alleanze sono ultra fragili e anche molto molto volubili e volatili, per cui spero che nessuno dopo Berlino, parlo del nostro governo, si distragga, come è successo nei passati mesi presi da altre priorità. Credo che il nostro ministro degli esteri e il presidente farebbe molto bene a dedicare a questo impegno il tempo ultra pieno. Emma Bonino, questa mattina in un'intervista al Corriere della Sera, sì, il ministro per gli affari europei Amendola ridimensiona quella che molti invece considerano una guerra a bassa intensità, esageriamo un po', sul petrolio tra noi e la Francia. Dice Amendola: ma no, la Francia è schierata soprattutto per la stabilità e la lotta al terrorismo nel Sahel e dobbiamo collaborare di più. E poi per Total, cioè l'equivalente francese del nostro Eni, l'estrazione petrolifera in Libia è poca cosa. Eni e Total lavorano insieme a Cipro e nel Libano, il resto sono frottole. Per molti invece non sono frottole, nel senso che c'è comunque una competizione, diciamola chiaramente, sul fronte petrolifero tra l'italiana Eni e la francese, certo, Total, non solo in territorio libico. Lei che ne pensa? Penso che questa competizione c'è, è una competizione, è inutile negarla, perché negandola non si riesce neanche a governarla. Invece bisogna prendere atto che in tutti questi mesi c'è stata e ha molto condizionato lo sviluppo sul terreno, milizie comprese, perché gli stabilimenti poi sono protetti anche dalle milizie, quindi immaginatevi un po'. Quindi non negarla, cercare di capire se si riesce a governarla. Per questo non sminuirei l'importanza, tant'è vero che Haftar, tanto per premere sulla conferenza di Berlino, proprio in questi giorni ha chiuso i pozzi con un danno di circa 45 milioni di euro al giorno per le casse libiche, peraltro gestite da Malta e che fanno riferimento soprattutto a Sarraj, ed è proprio questa, la banca Olivia, che è il sottovalutato, a mio avviso, almeno pubblicamente, come uno dei più importanti pomo della discordia, sottovalutato a mio avviso, mentre invece gli interessi stanno proprio lì. Haftar è una vita che chiede la congestione della banca, il cambio del presidente, e finora non c'è mai riuscito, ed è uno dei punti di attrito più importanti. La giornata di ieri è stata caratterizzata, Bonino, anche da questo incontro tra il Presidente del Consiglio Conte e Mike Pompeo, che era là ovviamente in rappresentanza degli Stati Uniti, sì, con quest'idea che Conte starebbe suggerendo agli Stati Uniti di dare una mano all'Italia perché appunto si possano mandare degli uomini dell'ONU sul terreno, delle Nazioni Unite sul terreno, in una missione a guida italiana. Vorrei sapere innanzitutto cosa ne pensa, e in secondo luogo se ha l'impressione che l'Italia abbia, come ci scrive un ascoltatore, c'è scritto poco fa, abbia perso tutto quello che poteva perdere a questo punto, se ci sono dei margini per recuperare terreno sulla vicenda libica. Prego. Ne penso tre cose: che l'Italia sicuramente negli ultimi mesi, o comunque da un bel po', si è completamente distratta dal contesto complessivo nordafricano e, come ricorderete, ha tutto focalizzato solo sul tenetevi i migranti, a qualunque costo, tanti costi li pagano i migranti stessi, nelle orribili carceri libiche, in particolare quelle private, non solo quelle gestite dallo Stato, che ogni tanto erano visitate dalle Nazioni Unite. Quelle più spaventose sono quelle private e appunto per l'ennesima volta gestite direttamente dalle milizie. Quindi diciamo che l'Italia si è focalizzata su questo tema perdendo di vista la situazione complessiva. È chiaro che non è stata, come dire, quindi una protagonista di tutto il resto che si muoveva intorno, avendo puntato solamente in tutte le poche interlocuzioni internazionali su questo tema. Se riesca a riprendere una qualche iniziativa, come dicevo prima, manca ancora peraltro una risoluzione del Consiglio di sicurezza, soprattutto sarà importante vedere le regole di ingaggio. Non vorrei ritrovarsi, perché una forza di interposizione tipo quella che abbiamo in Libano funziona perché è stata richiesta dalle due parti in causa che hanno tenuto fede ai loro impegni. Non vorrei invece ci trovassimo in un'ennesima riproduzione dell'eccidio di Srebrenica, dove certo c'erano i caschi blu, a quell'epoca il contingente era soprattutto olandese, ma con regole di ingaggio così fragili e così confuse che non hanno potuto fare altro che assistere all'eccidio di 8.000 uomini e bambini alla caduta di Srebrenica. Per cui dare una disponibilità ovviamente ad un contingente Nazioni Unite va bene, sarei molto molto molto cauta sulle regole di ingaggio. Se c'è tempo per una domanda proprio rapidissima invece, sì, sulla politica, Emma Bonino. Va bene, oggi alle 17:00 gastronomia. La politica interna, mettiamola così, certo che questa è la politica. Ma questo pomeriggio si vota per il caso Gregoretti. Che cosa pensa che abbia portato questa polemica di questi giorni? Cioè, era meglio evitare di fare un braccio di ferro per rinviare il voto a dopo le elezioni in Emilia-Romagna? È servito a qualcosa? Ma io non sono bravissima in questi giochi e manovre politichesi e politicanti. So di per certo che, e come già nel caso della 18, Salvini si deve difendere nel processo e non dal processo. questo vale per tutti gli italiani, non si capisce perché non debba valere per lui. Infatti lui ha chiesto di essere liberato da questo gioco e vuole andare a processo, l'ha detto ieri infatti, no? Ha chiesto anche ai suoi della Lega di votare perché possa andare a processo. Può darsi che gli convenga. Segnalo solo che ha detto la stessa cosa sul caso Diciotti. Poi quando arrivò in aula appunto la questione se mandarlo a giudizio sì o no, è stato ben contento di essere protetto all'epoca dallo scudo dei 5 Stelle che tra virgolette lo salvarono. Per cui, come vedi, al di là del merito giocano una serie di tattiche e tatticismi che non capisco a chi giovani, certamente non giovano alla serenità nell'affrontare una situazione delicata, perché Gregoretti era, come la Diciotti, una nave militare italiana, non era una perfida ONG, su cui peraltro segnalo che dopo 3 anni di incendiari contro l'ONG, i trafficanti, i taxi del mare, eccetera, eccetera, eccetera, non c'è uno ancora di sentenze di colpevolezza. Anzi, se ho capito bene, l'ultima sentenza rispetto alla racchetta è andata in segno opposto. Quindi spesso si perde il merito dei problemi per appunto tattiche di vario tipo. Credo che stia succedendo la stessa cosa. Io non ho cambiato idea. Ho detto per la Diciotti Salvini si difenda nel processo, lo dico adesso e penso che così dovremmo procedere. Grazie Emma Bonino, senatrice di Più Grazie. Europa, ex ministro degli esteri. Grazie Bonino, buona giornata, una pausa, ci ritroviamo subito dopo, parleremo un po' di politica e poi parleremo anche di Craxi, a tra poco. Mattino. Allora, vabbè, un ascoltatore ci scrive, cara Maria, dice: ma perché adesso parlate di Craxi? Vabbè, ieri ovviamente erano i 20 anni dalla morte, c'è stata questa celebrazione da Mammette, ci arriveremo tra un attimo, ma soprattutto è una figura che a 20 anni di distanza dalla morte resta ancora controversa, no? Un po' per tutto quello che sappiamo, per come è andata a finire la sua vicenda politica, ma anche perché in parte oggetto ultimamente di una rivalutazione dal lato appunto delle politiche fatte, insomma, di questo e riformismo. Poi io penso che secondo alcuni stupido ignorarlo, no? C'è un film in questi giorni, non so se qualcuno di voi l'ha visto, tra chi ci ascolta, si chiama Mamet, io sono andata a vederlo, e comunque è un film che sta avendo un buon riscontro di pubblico. Che significa? Significa che comunque c'è un pezzo di popolazione italiana che vuole capire meglio, che c'era all'epoca, 20 anni fa, anche 30 anni fa, e che ha voglia di riflettere. Poi ci sono certamente i tifosi da una parte e dall'altra, ma il bisogno di capire, io credo, è sempre un segno di vitalità. Sì. La necessità di rileggere o quantomeno di provare a guardare con occhi diversi quel pezzo di storia, lo spunto di riflessione è quello. Prima di arrivarci, cara Maria, ti volevo portare sulla politica, perché allora questa settimana è la settimana in cui andiamo verso le elezioni in Emilia-Romagna. Vi dico già che nel corso della settimana ospiteremo tutti i principali candidati, anche quelli in Calabria, perché poi si vota anche in Calabria, certo, ce ne stiamo scordando, Calabria, perché la partita importante ovviamente, soprattutto per il centro-sinistra e per l'alleanza di governo, è quella in Emilia-Romagna, però si vota anche in Calabria. Ospiteremo appunto i candidati e poi ovviamente lunedì dedicheremo la puntata, come è naturale. Come la vedi l'alleanza tra PD e 5 Stelle in vista del voto in Emilia Romagna? Mi pare interessante, ed è interessante anche che su questo punto una persona solitamente prudente come l'ex ministro Delrio, oggi in un'intervista sempre al Corriere della Sera, riflette e non si nasconda dietro un dito quando dice ci saranno ripercussioni nel nostro rapporto con i 5 Stelle se per caso Bonaccini dovesse perdere magari appunto per quella parte di voto 5 Stelle che gli è venuto a mancare con la candidatura. Il Movimento 5 Stelle, come sapete, va da solo sia in Emilia-Romagna che in Calabria. In Calabria con molte polemiche anche al suo interno, perché il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, un grillino storico per così dire, non è per niente contento del candidato scelto in Calabria dal Movimento 5 Stelle, il quale ha anche delle parentele che hanno fatto discutere. Ma tornando all'Emilia-Romagna, all'intervista di Del Rio di questa mattina, lui dice: a me non va di fare la parte dell'ipocrita, quello che dice, se il PD, la sinistra perdesse in Emilia Romagna sarà tutto come prima, e questo ha due risvolti: uno appunto nel rapporto con i 5 Stelle, perché a quel punto tutti chiederebbero conto al Movimento 5 Stelle per questa stessa strategia, e poi anche forse sulla tenuta del governo, che dicono gli osservatori andrà certamente avanti ancora qualche mese, ma certo gravato dalla zavorra di una sconfitta e dal fatto che una regione storicamente di sinistra avrebbe in quel caso scelto invece di cambiare totalmente percorso. Dunque, il voto in Emilia-Romagna ha tre aspetti significativi importanti. Uno, la tenuta dell'alleanza 5 Stelle-Partito Democratico. L'altro, nel caso di ipotetica vittoria della Lega e di Meloni e di Forza Italia, un cambio geografico, perché a questo punto tutto il nord sarebbe, il centro-nord sarebbe passato al centro-destra, e poi non dimentichiamolo, si aprirebbe probabilmente anche un dibattito su come il Partito Democratico vuole cambiare. Il segretario Nicola Zingaretti ha già anticipato, no? Ha già parlato di cambiamento, e quindi un conto non è un nuovo partito, ma un partito è un punto. Non un nuovo partito, ma un partire dalla sconfitta. Non un nuovo partito, ma un partito nuovo, ha detto Zingaretti, cosa sulla quale si sono scatenate ovviamente ironie. Fabio Martini, giornalista della Stampa. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Autore di Controvento, la vera storia di Bettino Craxi, uscito da poco, insomma, proprio per cercare di raccontare con oggettività, no, questa figura che torna in queste ore, in queste settimane a far discutere. Tra l'altro sei tornato, Fabio, sappiamo, da Mamet proprio in queste ore, insomma, dove sono riunite un migliaio di persone. Sentiamo, Maria, prima di andare da Fabio Martini, io farei sentire qualche voce, a partire da quella della figlia Stefania Craxi, no? Sentiamo. C'è la vergognosa assenza del governo italiano. La vergognosa assenza del governo italiano. C'è il governo tunisino, si vede che ancora non sono pronti, in ritardo di 20 anni sul paese reale, a fare i conti con Craxi, perché prima devono fare i conti con loro stessi. Tommaso Nannicini, del Partito Democratico. Quello che manca, ed è il punto politico più grave, è il Partito Democratico. Poteva mettere fine ad una lunga storia secolare dove danno ragione ai socialisti atturati a Matteotti e a Nenni con 40-50 anni di ritardo. Ecco, dopo 20 anni questa riconciliazione poteva esserci. E quello che era il delfino di Craxi, Claudio Martelli. E sono convinto anche che la scelta del vertice del PD, se è stata una scelta o se non è semplicemente un momento di sciatteria e di incuria, si dovrebbe misurare con Craxi. Nell'interesse della sinistra italiana, nell'interesse loro, nell'interesse della verità storica. Prego Maria, inizia tu, vai. Beh, allora, comunque, il primo a doversi misurare con Craxi, credo, sia Martelli stesso, no? Perché la sua vicenda personale politica con il suo leader ha avuto molti alti e bassi. Però io vorrei partire, Fabio Martini, più che dal dito puntato, come sempre, sul Partito Democratico, perché non c'erano ad Hammamet. No, io vorrei partire dal fatto che c'è un mondo in Italia, un mondo fatto di persone di una certa età, quelli che c'erano erano giovani o erano già maturi quando Bettino Craxi c'era. Questo mondo è andato a vedere il film Hammamet, non tutti, ma insomma, ed è un film che mostra un Bettino Craxi molto umano, è un lato personale che emerge anche se si parla molto di politica. A un certo punto però del film c'è un protagonista, c'è un comprimario, un amico che va a trovarlo, chissà chi poteva essere, a me è venuto in mente Cirino Pomicino, però tu mi dirai se ti sei fatto un'altra idea. E Craxi dice: la politica ha sempre avuto bisogno di denaro per andare avanti, perché bisogna pagare il cantante che fa il concerto in piazza, bisogna pagare gli alberghi dove si tengono le riunioni, eccetera. E però l'altro, il democristiano, gli dice: sì, la politica costa, però qualcosa ci è rimasto attaccato, più di qualcosa forse. Fabio Martini, prima di farti rispondere, una piccola correzione naturalmente, qua mi avevano dato un'indicazione sbagliata, poi sono tutte e due toscani, quindi ho faticato a riconoscere la voce, ovviamente era Nencini del PSI e non Tommaso Nannicini del Partito Democratico, la voce che abbiamo sentito, giusto per chiarezza. E già che ci siamo, prendiamo una breve pausa, visto che è l'ora giusta, e poi ti faccio rispondere, via. Mattino. Eccoci qua, Fabio Martini, vai con la risposta a Maria, vai. Ma insomma, sì, il personaggio che compare nel film non ha un nome preciso, è un mix di personaggi. Sicuramente negli ultimi giorni di vita di Craxi lui fu ricevette la visita di Francesco Cossiga, ma comunque quello è un democristiano tipico che dice: qualche soldo ci è rimasto in mano. E beh, effettivamente sì, quella fu una stagione di finanziamenti illegali per tutti. Craxi lo trovò, PSI era il partito meno finanziato, assecondò e anzi robustì quel finanziamento illegale, e sicuramente attorno al PSI si mossero decine e decine di miliardi. Se li avesse tenuti per sé, quei soldi si sarebbero visti. La famiglia vive, diciamo, in modo molto sobrio, è la stessa casa di Ammamet, è una bella casa, ma insomma costruita molti anni fa ad un prezzo molto modesto. Qua molti ascoltatori naturalmente quando si parla del personaggio insomma intervengono anche molto duramente, dicendo insomma qua si sta, a parte non stiamo santificando nessuno, ma stiamo cercando di fare una riflessione sul personaggio, dicono si sta santificando un latitante, no? Questo sentimento, Fabio, è molto diffuso. Certo, perché è esattamente precisa la definizione. Craxi morì da latitante, non ci sono dubbi. Occorre mettersi e sicuramente fece male a sottrarsi, diciamo, alla giustizia. 20 anni dopo abbiamo capito che non erano mal istruiti i processi che lo colpirono, ma furono sicuramente selettivi. E nel senso che, rimettendoci nei suoi panni, allora ci pareva, diciamo, una furia comprensibile, risentita. Oggi capiamo che la magistratura fu quantomeno selettiva, non fu ingiusta nei suoi confronti, ma lo fu nei confronti degli altri, che furono quasi tutti risparmiati. Ecco, diciamo, l'elemento di ingiustizia che si è consumata, al di là dell'aspetto della salute, su cui no, si concentrano sul fatto che non ebbe la possibilità di curarsi, su questo si concentrano quasi tutti i libri usciti questi giorni e anche il film. In realtà quello che è interessante di Craxi è la sua politica, la sua attività politica, la consistenza della sua leadership, quel suo tratto di decisione che oggi fa un po' impressione se messo a confronto all'indecisionismo così diffuso. Ecco, vorrei proprio tornare a quegli anni, agli anni 80, che sono stati anni magici per l'Italia. Ricorderò sempre da giovanissima steggista che in Francia i settimanali dedicavano la copertina ai tre condottieri italiani, i tre grandi imprenditori, che all'epoca erano Gardini, Agnelli e De Benedetti. L'Italia, e lo ricorda Craxi, recitato benissimo da Favino nel film, l'Italia era entrata nel primo cerchio dei paesi industrializzati del mondo, e quindi questo è, come dire, sono le luci di quel periodo, e certamente con alcune sue azioni politiche molto nette, come quella sulla scala mobile, Craxi ebbe un ruolo, però è anche stato il periodo in cui il nostro debito pubblico cominciò a galoppare infinitamente. Quindi, da cronista di questi ultimi 40 anni della politica, caro Fabio Martini, possiamo fare un tentativo, la politica non si fa mai con i se e con i ma se quelle luci positive, vale a dire la modernità, il fatto di aprire all'impresa, Craxi, e con lui ricordo il senatore Roberto Cassola di allora, furono i primi a intuire il potenziale del Made in Italy. Ecco, se si fosse continuato su quel percorso e si fosse stati meno compiacenti sul debito pubblico che avanzava, che cosa è mancato a quella classe politica? Forse un po' troppo autocompiacimento e il fatto che pensavano di essere infiniti, immortali? Certo, questa è un'osservazione molto acuta, è vero, c'era questa sensazione, perché il muro di Berlino in qualche modo garantiva lunga vita alle forze di governo. Naturalmente io cronista, diciamo, no, degli ultimi 40 anni sarebbe troppo, ma insomma di qualche decennio, ma insomma un solo dato, anzi due. Il primo, il governo Craxi decise il taglio di alcuni punti della scala mobile, quindi sottrasse dei soldi dagli stipendi pur di abbassare l'inflazione, che era un male oscuro e però che colpiva, come dire, gli stipendi assai più di quel piccolo vantaggio automatico mensile. Il Partito Comunista indisse un referendum e gli italiani diedero ragione al governo. Immaginiamo oggi un governo che, anziché dare così piccole mance, quella decide di tagliare gli stipendi. Ecco, inimmaginabile. E lui ebbe quel coraggio. Il debito pubblico in quegli anni aumentò anche il PIL, che raggiunse livelli oggi inimmaginabili, anche se il boom è successivo. Non dimentichiamo che gli anni 80 si concludono con 5 anni di governo a guida democristiana, dopo quelli 4 di Craxi, e sicuramente non c'era una particolare sensibilità su questo tema, anche se il boom è poi successivo. Sì, il boom del debito pubblico, non il boom della spesa pubblica, sulla quale già l'allora governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, all'inizio degli anni Ottanta segnalava esattamente ai partiti, esattamente alla politica, che era ora di finirla, ed erano poi esattamente quegli anni. Grazie a Fabio Martini per essere stato con noi, giornalista della Stampa, autore appunto di Controvento, la storia di Bettino Craxi, appena uscito in questi giorni, nei quali appunto si ricordano i 20 anni dalla morte. Era ieri appunto l'anniversario che, come abbiamo raccontato, si è celebrato ad Hammamet. Noi chiudiamo per oggi, cara Maria Latella, ci ritroviamo domani alle 8:20 come sempre. Domani Simone, a domani e ciao a tutti. E i ringraziamenti vanno a Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, insieme a Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Se volete ci potete contattare a 24mattino@radio24.it se ci volete scrivere per critiche, suggerimenti, idee, così come c'è la pagina Facebook, dalla quale come sempre andiamo in diretta video, ma che potete anche sfruttare come hub, fatemi dire questa parola, per comunicare con noi. Ci si risente domani alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia.